Consigli a Francesco Di Marco. Salutatemi monna Margherita, e raccomandovela perché il vale, e anche perché Dio ve l'ha data per compagna. In verità io ho molto per bene quando io sono amaro verso la mia e un amico mi prieghi per lei. Pure costii molti affanni d'animo, nei quali le donne non sogliono essere, e voi siete pur tempestoso. E se io errassi, aggiate perdono. Sapete bene che l'amico ha licenza dall'amico di dire ogni cosa. Altrimenti, se temesse, sarebbe amico pauroso e non perfetto. Cristo vi guardi e vi dirizzi. Di lui vi ricordate non quando v'avesse in prigione o copienne ceppi, cioè al capezzale, ma ora che siete sano e libero. E dei servigi fatti in libertà rende l'uno cento. Il Dio ne conforti voi e me. Lapo Mazzei,